America 24 di Mario Platero. We have reached agreement on a strong draft with the cooperation of both Russia and China. Buongiorno da New York, Mario Platero, benvenuti ad America 24. Il tempo per l'Iran è scaduto. Teheran ha fatto troppo poco, troppo tardi per poter sfuggire alle sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Avete sentito il messaggio chiarissimo del segretario di Stato Hillary Clinton. Abbiamo lavorato strettamente con i nostri partner del gruppo dei sei, ha detto la Clinton davanti al Senato, su una bozza di risoluzione per delle nuove sanzioni contro l'Iran. E sono felice di poter dire che abbiamo raggiunto un accordo su una bozza forte con la cooperazione di Russia e Cina. I tempi, dicevo, sono scaduti. La concessione parziale, solo la metà del suo uranio, l'invio alla Turchia invece che alla Russia o alla Francia dell'uranio perché fosse arricchito, è giunta appunto quanto le grandi potenze erano arrivate alla fine di un percorso che durava ormai da molti anni. E dunque, quando ieri per un momento si è temuto che forse il fronte unito potesse spaccarsi, beh, questo non è successo, e dunque una prova di tenuta di quello che è l'ordine di fondo a livello internazionale. Dietro questa decisione di andare avanti, nonostante questa mezza apertura di Teheran, infatti, secondo me, si nasconde anche un altro messaggio politico importante, e cioè le capitali politiche con la C maiuscola restano a Washington, a Pechino, a Mosca, con ruoli di appoggio di Londra, Parigi, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Una partita lunga e dolorosa come quella condotta per anni per impedire all'Iran di diventare potenza nucleare non può improvvisamente passare per il Brasile, la Turchia, che tolgono il tappeto rosso sotto le grandi capitali e così trovano una soluzione abbozzata all'ultimo istante. Le sanzioni ovviamente sono il frutto del compromesso. Ieri notte abbiamo avuto già alcune indiscrezioni. Non ci sarà l'embargo alle esportazioni petrolifere oppure alle importazioni di greggio raffinato per l'Iran. Si cercherà di colpire soprattutto le istituzioni finanziarie, soprattutto quelle che hanno a che fare con la potente Guardia Repubblicana. Ma di tutto questo parliamo con il nostro ospite di oggi, Paolo Valentino, corrispondente del Corriere della Sera da Washington. Buongiorno Paolo. Buongiorno a te Mario. Le sanzioni sono passate un po' a sorpresa, se vogliamo, rispetto alla situazione di ieri. Hai la sensazione che dietro ci sia anche un messaggio politico? Beh, credo che sia questa un'analisi corretta, nel senso è un forte segnale che la governance del mondo comunque è ancora nelle mani dei grandi paesi. E paradossalmente è stato proprio probabilmente il tentativo iraniano, la furbizia persiana di voler far sponda su due paesi emergenti ma tutto sommato minori come il Brasile e la Turchia, probabilmente ad aver spinto anche la Cina, che finora ricordiamo era stata la più reticente nel dire sì alle sanzioni, a rompere gli indugi, a mandare questo forte segnale annunciato da Hillary Clinton. E dunque quello che non immaginavamo ieri, e cioè una possibile finale vittoria di Obama su questo fronte, c'è stata. Non c'è dubbio, questo è stato un buon successo per la diplomazia americana e per il presidente, che sull'accordo per le sanzioni all'Iran entro la primavera aveva scommesso parecchio, aveva investito molto capitale politico. Paolo, parliamo del contenuto delle sanzioni. Blocco navale, danni soprattutto sulla finanza, meno sul petrolio. Cosa ne pensi? Saranno efficaci? Ci sono due parti. La parte del parziale blocco navale, l'autorizzazione a perquisire le navi commerciali in entrata e in uscita per controllare se portano tecnologia nucleare o armi. Quello sarà la parte più difficile, perché non è come per la Corea del Nord, sulla quale questa risoluzione, questa misura è stata modellata. La Corea del Nord è un paese piccolo, mentre l'Iran è un paese con un fortissimo commercio navale, quindi quella sarà la parte più difficile. Probabilmente migliori risultati si potranno avere nelle misure finanziarie mirate a colpire le attività dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran, che come ricordiamo sono non solo il braccio armato del regime, ma ormai un vero potentato economico che controlla tutto il programma nucleare. Bene Paolo, grazie. La furbizia persiana per una volta, come dicevi tu stesso, non è arrivata fino in fondo. A presto. We are here at Mr. Greg Bear's house. Mr. Greg Bear is a lobbyist that works for Bank of America. Bad for America! Bank of America! una protesta, una vera e propria protesta, lo avete sentito in questo caso, contro la Bank of America. Ma la novità in questo caso è che la protesta non è per strada davanti ai quartieri generali, ma ben 700 persone organizzate dal National People Action, che è una struttura di volontari di Chicago, si è recata davanti alla casa privata di Gregory Bauer. Avete sentito, il suo nome veniva invocato, lo chiamavano lobbista per Bank of America, lui in realtà è il responsabile degli affari legali, dunque un dipendente della grande banca americana, per protestare contro di lui. Una intimidazione, direi quasi fisica, a questo signore, alla sua famiglia, con tanto di cartelli, i cori che avete sentito hanno ovviamente a questi volumi disturbato il vicinato. Un uomo a un certo punto è uscito dalla sua casa urlando a sua volta che se ne andassero, e questi a loro volta hanno risposto: noi abbiamo perso la casa. Insomma, la situazione sul fronte di opinione pubblica contro le banche è tesa, secondo me, perché ci stiamo avvicinando ormai alla resa dei conti sulla riforma del sistema finanziario. Entro la fine della settimana potrebbe già esserci un voto. La battaglia è nel momento forse più duro. Le banche resistono. Una delle proposte, quella di separare le attività di banca d'affari dalle attività di banca commerciale. Molte delle mozioni sono già state approvate. I repubblicani ormai hanno gettato la spugna, si accorgono di aver perso la battaglia contro l'opinione pubblica e certo non vogliono ostacolare una proposta di legge per la quale poi sarebbero a loro volta condannati, soprattutto in vista delle elezioni di novembre. Questa dimostrazione poi è andata avanti, sono andati davanti a un'altra casa, quella di un dipendente di JP Morgan. Ecco, mi viene il sospetto che forse dietro un'azione organizzata come questa della National People Action, che è di Chicago, ma forse è casuale, forse no, possibile, Obama è di Chicago, sappiamo che la sua base elettorale è lì, quella di Rahm Emanuel, il suo capo di gabinetto, insomma, la battaglia va avanti. C'è stato un altro episodio piuttosto curioso, quando Jamie Dimon con il gruppo del Business Council ha ricevuto il presidente americano, è andato in visita alla loro riunione annuale. Jamie Dimon, ricordiamolo, il numero uno di JP Morgan Chase, e Obama è andato, ha pronunciato un discorso e se n'è andato. Ho saputo che il giorno dopo Dimon ha chiamato la Casa Bianca, ha parlato con Rahm Emanuel lamentandosi di questo trattamento, diciamo, non appropriato del partito del presidente americano, che avrebbe dovuto dialogare con queste persone. Sono 170 amministratori delegati delle più importanti aziende americane. La risposta di Emanuel è stata un po' spallucce: quello è il presidente degli Stati Uniti, tu sei il dipendente di una banca. Ecco, questo non dice bene per il rapporto fra questa Casa Bianca e le aziende americane, le banche americane in particolare. Comprensibile quando si arriva alla resa dei conti di un progetto di legge che potrebbe davvero cambiare il volto della finanza americana come l'abbiamo conosciuto finora. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Jonathan Cahn, alias John Davids, autore di Hollywood, per alcuni vicino alla sinistra, è uscito allo scoperto, ha ammesso di essere lui, John Davids, l'autore di una canzone e l'interprete di una canzone che è diventata l'inno dei Tea Parties. Segretamente ha detto: nel mio cuore adoro il movimento dei Tea Parties, adoro questa canzone, adoro la ricezione che ho dalla folla, e dunque temevo che se avessi rivelato la mia vera identità non mi avrebbero accettato. Bene, dedichiamo a lui la canzone del giorno, ascoltiamo questa sua canzone, American Heart. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!